Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1861. La difficile condivisione del debito pubblico. La fraternità fra gli italiani è anche condivisione. Il peso dei debiti però non è facile da condividere, neanche nella nuova Italia. Gli entusiasmi patriottici ci sono, ma la partita dell'unificazione del debito pubblico fa discutere, e tanto discutere farà, ne siamo sicuri, nei prossimi anni. Il 27 aprile di questo 1861, due giorni prima della sua esposizione finanziaria alla Camera, il ministro delle Finanze Pietro Bastoggi ha presentato tre disegni di legge, uno per costituire il gran libro del debito pubblico, il secondo per unificare il debito pubblico degli stati preunitari e di alcuni governi provvisori, il terzo per contrarre un nuovo prestito da mezzo miliardo. Il 29 aprile, davanti ai deputati, ha pronunciato queste parole. Onorevoli colleghi, perché l'Italia meriti il credito di tutta l'Europa, deve cominciare a rispettare i debiti contratti. Né sarebbe conveniente alla nuova Italia che essa si costituisca debitrice degli antichi prestiti e pagarli, quasi fosse procuratrice degli antichi governi. Di qui la necessità di distruggere quegli antichi titoli e sostituire a quelli un titolo italiano. Dopo le parole, le cifre. In totale il debito ammonta a poco più di 2,4 miliardi di lire, con responsabilità che anche in questo caso, come nel caso del deficit, non sono egualmente ripartite. Il Regno di Sardegna pesa con oltre 1,3 miliardi. Il Regno delle Due Sicilie ha 657 milioni di debito, la Toscana 219 milioni, 150 milioni la Lombardia. Poche decine per gli altri territori entrati nel regno. Alcuni studiosi consultati dal Gazzettino rivelano però che alla fine il debito supererà i 3 miliardi in totale. Il clima in Parlamento è arrendevole, la maggioranza salda, ma ci sono cose che fanno gridare allo scandalo. Il toscano ministro Bastoggi, che tutti conoscono per un banchiere di successo, per un liberale ultramoderato che è stato in buoni rapporti con Mazzini ma anche con il Granduca di Toscana, nel 1849 aveva prestato denaro proprio al Granduca per finanziare la repressione dei moti. Anche questo prestito è finito nel calderone del debito nazionale. I deputati Guerrazzi e Bixio si sono opposti, ma sono di sinistra, quindi in minoranza. Paolo Piacenza, al Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.